piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Oggi parliamo di abuso sessuale. Direte, è un termine abusato, se ne sta parlando tanto nei giornali. Le memorie di attrici, di attori, di soubrette, le storie di personaggi famosi. Quello è stato visto con 11 marinai sulla sua barca, chissà che stava facendo. Quell'altro mi ha messo le mani addosso 30 anni fa durante un provino. Quell'altro ancora mi ha sfiorato un ginocchio. Beh, se ne parla molto perché... perché i protagonisti sono tutti personaggi famosi, sono tutte persone che con la loro foto soltanto riempiono le pagine dei giornali, creano dibattito nei social network, si esprimono i politici, si esprimono gli opinionisti, si esprimono un po' tutti, anche quelli che non hanno niente da fare e usano lo smartphone per riempire i loro spazi vuoti. Oggi vi parlo di un abuso che è un abuso accertato, il cui colpevole ha patteggiato il suo reato, quindi ha confessato di aver abusato una persona. La persona è un ragazzo disabile. Da qualche giorno si è parlato in maniera abbastanza sommessa su qualche giornale di questo abuso, per il fatto che il padre del ragazzo abusato non si capacita, come mai il colpevole di questo abuso, che ha patteggiato, quindi ha ammesso l'abuso, non si sia fatto nemmeno un giorno di carcere e abbia patteggiato per una pena detentiva che naturalmente non sconta perché è incensurato e per un risarcimento di 5.000 euro. Faccio la premessa perché poi non voglio tanto entrare nell'aspetto giuridico. Io stesso ho presentato queste perplessità attraverso tutti gli strumenti che ho di esprimere il mio pensiero. Ha risposto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, perché il fatto è avvenuto a Cuneo, specificando che non c'è nulla da eccepire sulla sentenza, ma su questo nessuno aveva mai posto dubbi, ma l'abusato in sé aveva una diagnosi di problemi mentali medi, e quindi aveva un ritardo mentale medio, oltre alla diagnosi di autismo, e quindi non sono emersi atti di violenza o minaccia né di costrizione, neppure i minimi posti in essere dall'indagato nei confronti della persona offesa, e neppure fatti o circostanze diverse ulteriori rispetto a quello che lui stesso ha detto nella confessione. Chiudo, non voglio entrare nella sentenza. Per la sentenza il ragazzo disabile sì, era disabile, ma in fondo non tanto da non poter dare l'idea che potesse in qualche maniera essere partecipe a questa violenza. Comunque è stato accusato, è stato denunciato e a piede libero. Il padre di questo non si dà ragione, e quindi il padre l'abbiamo chiamato questa mattina per farci raccontare la vicenda proprio dall'inizio. Luca, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ho fatto una premessa proprio per toglierci subito di dosso l'idea che si vuole fare una trasmissione per mettere in dubbio l'operato della magistratura. Vogliamo soltanto raccontare i fatti, quindi racconta i fatti dall'inizio. Tuo figlio quanti anni ha? Allora, mio figlio è maggiorenne, già all'epoca diciamo dei fatti, al di là del fatto che comunque c'è una perizia tra l'altro agli atti dello psicologo, dell'equipe che lo segue da anni, che lo descrive come un ragazzo, un bambino di 5-6 anni. Il tuo figlio è un autistico, te lo dico perché la parola sì, non mi fa paura, avendo anch'io in casa un soggetto del genere, è un autistico cosiddetto a basso funzionamento, cioè non autonomo. Sì, chiaramente ha una disabilità, un handicap al 100%, con la legge 104 e tutto quello che ne consegue. Tra l'altro, articolo 3,3, cioè è il top della disabilità, diciamola voilà, così, visto che conosciamo il problema. Voilà. Mi permetto solamente di puntualizzare una piccola cosa. Questa puntualizzazione della Procura di Cuneo che dice, alludendo a non si sa che cosa, che sia di medio e non di grave, non è suffragata dai fatti, perché io ho ovviamente in mano i fogli dell'attestazione dell'handicap e dell'invalidità civile, che dove si scrive, cioè è scritto grave, quindi anche su questo ci sarebbe da discutere. Ecco, io quello che mi permetto di dire all'inizio, siamo in un paese in cui c'è una profonda e radicale inciviltà nei confronti della neurodiversità, della disabilità mentale, e quindi non esiste un criterio oggettivo accettato da tutti, condiviso da tutti, nel fare diagnosi ai ragazzi autistici. Quindi in questo momento teniamola in uno spazio di incertezza, però vorrei entrare nei fatti. Intanto chiedo al pubblico 800 24 0024, se avete qualcosa da aggiungere, da integrare o da domandare rispetto a questa vicenda, siamo qui ad ascoltarvi in diretta. Allora Luca, andiamo avanti. Tu hai un figlio comunque autistico. Autistico significa autistico grave, con diagnosi di autismo al 100%, che è un ragazzo che comunque ha bisogno di una costantemente una persona vicina che lo accompagni, non può andare per strada tranquillamente, non può uscire la sera, ha bisogno di un sostegno continuo. Assolutamente sì, Gianluca. E quindi diciamo che per tutte le attività, al di là del fatto che ha delle proprie autonomie, per fortuna, però deve essere accompagnato. E quindi finita diciamo l'esperienza scolastica fino delle medie, che chiaramente sono nel paese in cui abitiamo, che è un paese di 10.000 abitanti, si decide di farlo andare alla scuola superiore, al liceo, e quindi ci troviamo davanti il problema di come accompagnarlo. Ci facciamo riferimento al territorio e, come spesso purtroppo, e non vi danno un pulmino, quei voilà, pulmini gialli come danno, dovrebbero dare normalmente. Hai già capito tutto, nel senso che ci rispondono che non c'è il servizio e non si può, e forse si rimbalzano la palla uno con l'altro, e allora inizialmente lo accompagno io per 2-3 settimane e poi cominciamo a pensare a un accompagnatore. Cioè un autista che lo accompagna a scuola e lo riprenda. Sì, neanche un autista, perché un accompagnatore, caso, diciamo, sì, un accompagnatore. Sì, si trattava di accompagnarlo sull'autobus normalmente come tutti gli altri ragazzi che andavano. Ecco, faccio capire alle persone che ascoltano, un soggetto autistico con quel livello, diciamo, di gravità non può andare da solo nell'autobus, c'è una persona che deve accompagnarlo, che da solo non sarebbe in grado, e questo per farlo capire. Allora tu hai trovato una persona che accompagnasse tuo figlio a scuola, come l'hai scelta questa persona? Ecco, come tu ben sai, avendo il problema in casa, uno dei problemi che hanno i nostri ragazzi in generale è quello del patire, comunque essere destabilizzati dai cambiamenti, e quindi si è pensato a una figura che lui conoscesse, fortunatamente una persona vicino a lui, diciamo, che conoscesse, un quasi familiare. Bravissimo. E quindi cominciamo a immaginare chi potesse essere, e combinazione, c'è un amico di famiglia, il mio migliore amico preciso, e che con la quale la famiglia abbiamo rapporti di frequentazione, di cene, che chiaramente conosce mio figlio, e quindi non c'è questo problema del cambiamento. Si è dichiarato disponibile a accompagnarlo e riprenderlo, ecco, a fare l'accompagnatore. Sì. In più era un lavoro, cioè era retribuito per questo, lo faceva in via di favore. Ecco, in più era retribuito con un parte il contributo che siamo riusciti ad avere, sì, l'indennità di accompagnamento che danno, sì, a un disabile. Quindi avevi, diciamo, un contributo, potevi pagare una persona per accompagnarlo, sì. Voilà. Ma c'è di più. La persona risulta essere diciamo la scelta migliore, perché è pure disoccupato momentaneamente. Quindi, quindi univi due circostanze che coincidevano. Non aveva lavoro, trovava un lavoro e lo faceva volentieri perché conosceva il ragazzo. Ci fidavamo al 100%. Questa persona, non voglio entrare nella sua definizione anagrafica, ma è una, certo, persona adulta, con famiglia? È una persona con famiglia. Con figli? Due figlie e un nipotino, adesso invece sono due. E quindi ti lascio anche immaginare lo scenario, no? Quindi, dunque, la scelta a priori è perfetta, un padre di famiglia, conosce il ragazzo, è un amico, chi meglio di lui? poi in una carenza totale che c'è nel nostro paese di persone che professionalmente sono adeguate ad accompagnare ragazzi autistici. Non c'è una formazione professionale, ci si affida o al caso a una scelta come questa. Per quanto tempo ha accompagnato il ragazzo a scuola questa persona? Dunque, lui ha iniziato ad accompagnarlo dal 2014. Diciamo, il ragazzo al tempo quanti anni aveva? Aveva 18 anni. Va bene, 18 anni, 2014. 18 anni, sì, sì. Diciamo che il primo segnale che abbiamo è a metà 2015. Quindi dopo un anno che l'accompagnava hai notato delle cose che non ti convincevano? Diciamo, nostro figlio dice la prima frase in assoluto che ci mette così, ci lascia un po' stupiti, no? Perché non era mai successo. Visto che sono ragazzi comunque che sono ripetitivi, che fanno le stesse cose, che tendono a ripeterle all'infinito. Sì, fa parte del loro problema avere delle stereotipie, ripetono delle frasi magari che hanno sentito. Sì. Bravo. E esce fuori con la famosa frase rivolto alla mamma, non si mette Pippo in bocca. Chiaramente Pippo, puoi immaginare a cosa si riferisce, il nostro gergo con lui per definire il pene maschile, chiaramente, no? Dice non si mette Pippo. Tuo figlio è verbale fino a che punto? Cioè dice delle frasi più o meno con un senso, riesce a parlare, fa discorsi compiuti? Sì, diciamo che chiaramente non è che ti fa dei racconti, delle storie, però esprime qualche suo bisogno, ecco, assolutamente riesce. Esprime i suoi bisogni e ascolta e capisce tutto. Quindi ti pare strana questa cosa, perché lui non guarda la televisione, perché non è attratto, ci chiediamo da dove sia uscita fuori questa cosa. Cioè aveva avuto comunque, no? Delle indicazioni o delle qualcosa legato a un atto sessuale, che è un atto di sesso orale, senza che tu dicevi, ma da chi l'ha imparata questa cosa, da chi l'ha detto? Certo, tra l'altro voglio dire, sia a scuola che in altri ambiti, è sempre e costantemente con l'insegnante di sostegno. Quindi per far capire alle persone, non è come un qualsiasi ragazzo che a 12 anni già parla con gli amici, guarda internet, vede YouPorn, quindi le cose le sa anche se averle vissute. È un ragazzo che da questo punto di vista ha una socialità limitata, data proprio dal fatto che, ahimè, non è una società adeguata per fargli fare un'inclusione totale. Quindi il fatto che dica non si mette Pippo in bocca vi ha fatto allertare. E quindi cosa hai fatto? Ecco, diciamo che questa cosa ci ne parliamo tra noi genitori, però non riusciamo a capire, ecco, non mettiamo a fuoco bene la cosa. E passa un po' di tempo e la cosa comincia a essere un po' più precisa. Tra l'altro, contestualmente a questa prima frase, nostro figlio inizia ad avere degli episodi di autolesionismo che mai aveva avuto fino a quel punto. Comincia a farsi del male. Sì, si strappa letteralmente le unghie delle mani, ma strappare è quasi un eufemismo, cioè è una cosa incredibile, con la bocca, con il tagliaunghie, se è veramente una cosa che solo a vederle... Comunque sono dei sintomi di atti comunque lesivi verso se stesso, che non aveva mai manifestato. Assolutamente, e inoltre inizia ad avere un'ossessione, anche qui inspiegabile per noi, per il palato, per i denti e per la bocca. Tant'è che quando manifesta questa cosa chiedendola a tutti, fa vedere palato, fa vedere bocca, apri la bocca, queste cose qua, io feci una battuta dicendo si vede che da grande vorrà fare il dentista. No? Senti una cosa, ma non c'avevi una sorta di supporto, un servizio di neuropsichiatria che seguisse tuo figlio, a cui potevi intanto raccontargli questi sintomi? Assolutamente sì, e questo è stato fatto. Chiaramente, non avendo degli elementi ancora precisi, sta crescendo, sai, lui si fissa su determinate cose, magari, che ne so, è andato dal dentista e questa volta è stato impressionato. Diciamo, e non avevano intravisto qualcosa di sospetto. No, quando hai avuto del sospetto che tutto ciò fosse ascrivibile a una possibile abuso sessuale? Le cose continuano chiaramente, queste fissazioni e queste ripetizioni, ma a un certo punto Questo cambiamento avviene, diciamo, quando bene o male si era stabilizzato il rapporto di accompagnamento da parte dell'amico. Quindi tu hai messo insieme le due cose: da quando va a scuola con questa persona comincia a avere questi sintomi. Certo. Se no, come facevi ad arrivare a una conclusione? A un certo punto ci arriviamo perché fortunatamente, e lo metto fra virgolette perché qui apro una piccola parentesi, abbiamo la fortuna, come tu hai sottolineato, che nostro figlio è verbale. Riesce a parlare, sì. Tu sai benissimo che moltissimi dei nostri ragazzi autistici non hanno questa possibilità. Chiudo la parentesi. Essere verbale non significa avere un apporto cognitivo superiore agli altri. Hai sviluppato il linguaggio per altre ragioni. Mio figlio non è verbale, ma probabilmente il suo quoziente intelligenza è simile al tuo, uguale al suo. Cambia nulla. Diciamo però, questa è una raffinatezza diagnostica che richiede gli strumenti professionali che non sempre in Italia si hanno quando si porta un figlio a fare la diagnosi. Allora, ci fermiamo un istante, ci interrompiamo al punto in cui la famiglia di questo ragazzo capisce che c'è qualcosa che va oltre la sfera dei sintomi legati all'autismo del figlio, e i segnali che dà il figlio sono molto ben precisi e molto legati soprattutto al fatto che potrebbe aver avuto una violenza sessuale. A tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Faccio solo un'amara valutazione. Stiamo parlando di un caso di violenza sessuale, vero, reale, accertato, il cui colpevole ha ammesso di averlo fatto nei confronti di una persona inerme, disabile. Ho ricevuto un sms e una telefonata. Se avessi parlato di Asia Argento o Miriana Trevisan, probabilmente ci sarebbe stato più calore da parte del pubblico. Ma non me ne faccio un problema. Luca, andiamo avanti. Dal punto in cui siamo arrivati, arriviamo al punto in cui cominciamo a entrare nel vivo della vicenda. Tu hai cominciato a avere il sospetto più che giustificato che a tuo figlio qualcuno imponesse comunque un abuso sessuale. Sì, c'è una svolta a un certo punto mio figlio, alle frasi che continuava a ripetere, aggiunge un particolare fondamentale. E la frase diventa, rivolgendosi a me, ma soprattutto in questo caso alla mamma: facciamo Pippo insieme, come con... E dice il nome di quella persona. E dice il nome del mio migliore amico. Quindi avevi capito che aveva raggiunto una sua, diciamo, dimensione di consapevolezza del rapporto sessuale. Sì, tra l'altro dice questa cosa più volte e non dice mai un altro nome, sempre solo quello. No, per far capire chi ci ascolta, un ragazzo viene definito di ritardo medio, è un ragazzo che subisce un abuso sessuale e poi dice alla madre: facciamolo insieme. Per farvi capire cosa significa ritardo medio, in quale parametro ci stiamo muovendo, di persona, fra virgolette, vorrebbe essere considerata normale. Andiamo avanti. E poi se ne aggiunge un'altra un giorno, due dopo, dove dice: posso vedere, strappando il telefonino di mano alla mamma, posso vedere le foto del Pippo e del palato come con, di nuovo. E quindi avevi capito che si circoscriveva la vicenda. Sì. Ma Gianluca, sinceramente, sarà perché è una cosa impensabile, la prima cosa che penso è: vuoi vedere che quel pezzo di idiota, per usare un eufemismo, del mio amico, accompagnandolo, è stato così incauto da magari guardarsi sul telefonino un filmato porno? Si guardava, la migliore delle ipotesi era, anche se era un'ipotesi, diciamo, con grande limite di cioè un educatore che accompagna un ragazzo, che educatore questa figura, non dovrebbe assolutamente esporre un ragazzo disabile situazioni emotive che non può gestire. Comunque, nella, diciamo, la cosa migliore sarebbe stata che tutto sommato si fosse guardato un filmettino zozzo e tuo figlio avesse sbirciato, ecco. Voilà. E quindi convoco immediatamente l'amico e glielo dice. Per chiedere spiegazioni e tra l'altro registro solamente in audio col telefonino quella conversazione. Sì. E lui prima nega, poi dice ma dici che avrà visto, ma sai, di su e di giù, e addirittura mi dice, e prima ancora, e tu mi convochi per una cazzata del genere? E io lì capisco immediatamente, avendo delle esperienze in un'associazione che si occupa di abusi sui minori e di pedofilia da anni, e questo è il paradosso ulteriore che c'è in questa storia, che c'è qualcosa che non va, cioè le risposte che dà. Un'aggressività non giustificata, ecco. E come reagisce proprio, che è fuori luogo, cioè non ha senso. Quindi, vabbè, usciamo dalle supposizioni, andiamo ai fatti, se no facciamo solo ipotesi. A questo punto, però, appunto, non ho niente in mano e quindi decido di parlare con mio figlio. E chiaramente, nel modo più adeguato possibile, sorridendo, scherzando, e gli chiedo. Esattamente cerchi di arrivare al punto e vedere se riesci in qualche maniera a capirlo. Sì. E lui, con le sue parole semplicissime, disarmanti, dice esattamente cos'è successo, quello che sospettavi, e ripete sempre questo nome, non lo associa mai a nessun altro nome, non è mai successo, no? Cioè lui compiva atti sessuali passivi con questa persona qua, per capire. Guarda, anche dal capo di imputazione stesso emesso dal tribunale è riconosciuto che li compiva e li subiva. Ma quindi diciamo, vabbè, adesso non cambia molto, ma solo per capire. Certo. Va bene, comunque. Quindi, era coinvolto diciamo in un'attività sessuale inadeguata per il fatto che lui non era in grado di intendere e volere, quindi di accettarla. Ecco. Gianluca, mi piace anche parlare chiaro, perché voglio dire... Sì, ma bisogna parlare chiaro. Non devo nascondermi. Cioè, in pratica ci sono stati degli atti di masturbazione e delle fellazio. Ecco, vabbè, basta, fine, abbiamo capito. Questo è quello che è. Poi, questo è stato accertato anche in tribunale, quello che lui ha confessato. Perfetto. È scritto sul capo di imputazione. È quello che ha confessato, Vabbè. A questo punto... ho capito perfettamente cosa è successo, ma mi trovo nella situazione di doverlo dimostrare, e tu sai benissimo, già non credono normalmente ai ragazzi, ai bambini normodotati, immaginiamoci cosa potrebbe succedere. Non credono alle donne, non credono agli uomini, è molto difficile, certo. Chiaro, no? E quindi comincio a pensare e... Come trovare la maniera di incastrare questa persona? Voilà, decido di acquistare una telecamera mimetizzata in una radiosveglia. Cioè, ti organizzi comunque, le vendono su internet per pochi soldi. Fai una stanza per intercettazione a casa tua, questo significa. Sì, che però in un primo tempo può sembrare un'idea brillante, ma non lo è, perché vorrebbe dire mettere ancora a repentaglio il nostro figlio nelle mani di questo personaggio. Quindi cosa succede? Tu lo convochi a casa tua a questo punto? Lo convoco, lui nel frattempo ha ormai mangiato la foglia e quindi è molto a disagio e miracolosamente, lo ripeto, miracolosamente, riesco ad avere una confessione, sicuramente perché lui non pensava di essere videoregistrato. E quindi riesco a farlo... E quindi ti confessa quello che ha fatto, candidamente, così? Sì. Ma come si giustifica? Come si giustifica? Beh, chiaramente come fanno tutti i predatori, ma è lui che lo provocava, cioè era nostro figlio che lo provocava, capisci? Era questo. Quindi, sì, ma lui è un uomo sposato con dei figli, mi sembra ma un certo, po'... Ma certo, cioè, come fa a sentirsi provocato da un ragazzo, ammesso che sia possibile? Lui ha detto esattamente così, era lui che insisteva, cosa che no, tra l'altro è proprio non verosimile, perché... Dato vabbè, che lui che insisteva, cioè è già paradossale in sé che sia avvenuto, comunque sia, perché non ti ha avvertito di questo problema? Comunque ha ammesso questa cosa. Ammesso, e quindi a questo punto avevamo la confessione. L'hai denunciato. L'ho denunciato e quindi, tra l'altro, l'ho denunciato contento, se si può dire, in una situazione del genere, di quello che ero riuscito ad avere, perché era veramente miracoloso avere delle prove così schiaccianti. E quindi fiducioso. Quindi c'è stato il processo. Fiducioso della giustizia. C'è stato un processo. No, non c'è stato nessun processo. C'è un processo, nel senso, lui ha parlato, ha patteggiato subito, immediatamente, ammettendo la colpa. Sì, ecco, questa è curiosa come cosa, perché io presento la denuncia il 3 maggio e lui astutamente il 5 di maggio, due giorni dopo, si presenta spontaneamente dal magistrato e rende una confessione spontanea. Beh, questo gli avranno consigliato gli avvocati. Tutto sommato è la strategia difensiva, visto dal punto di vista suo, migliore. Ecco. Ne è uscito chiaramente tutto sommato bene, perché è stato condannato a una pena detentiva di quanto? 22 mesi. 22 mesi, che non sconta, essendo incensurato, e 5.000 euro di risarcimento. Sì, 5.000 euro, che i PM hanno ritenuto congruo. E quindi gli hanno dato l'attenuante di un terzo, poi gli hanno dato un'altra attenuante per il fatto che ha confessato spontaneamente, ma bada bene Gianluca, la confessione non è tutto meno che spontanea, e secondo, nella stessa confessione lui smentisce se stesso nella videoregistrazione, mentendo sui fatti. Eh sì, però vedi come ha scritto, se no ci addentriamo una questione giuridica, certo. Non usciamo più, come ha scritto la procura, quando uno patteggia e fa una confessione, la confessione va sopra ogni altro tipo di prova, quella è la prova, tutto quello che è successo, le prove così non valgono più, vale la confessione. Lui vale la sua parola. È giudicato su quella confessione, quindi a questo punto tu ti trovi con una persona che sai che ha compiuto quello, che sta nel tuo stesso paese, lo vedi vicino, lo incroci, hai modo di vederlo per strada. È già stato, no, da me no, l'hanno già visto dei miei familiari, l'hanno visto degli amici. Ma la famiglia ha saputo questa cosa, la sua famiglia? Allora, la famiglia, questa è l'altra assurdità, proprio perché c'era questo rapporto amichevole. Di amicizia, noi prima di fare la denuncia abbiamo fatto vedere alla moglie, che si è portata dietro una figlia, la registrazione. L'intero video registrato. E cosa ha detto? La moglie? Beh, a parte la disperazione iniziale, poi ha cominciato a implorare di non denunciare, che ci avrebbero pensato loro, stai tranquillo di qua e di là, e quindi questo ti fa pensare che lui, oltre a non essere stato spontaneo nella confessione, perché l'ha fatto dopo la nostra denuncia, ma lui sapeva anche che c'era una videoregistrazione che lo incastrava, e questo è agli atti, non sì, è agli che... atti, sì caro. Poi adesso ci fermiamo un istante, devo ridare la pausa. Come hanno spiegato i magistrati, il fatto che lui abbia patteggiato, la sua strategia difensiva è stata per lui efficace. Il patteggiamento annulla tutte le altre poi sono state prima, vale quello per il patteggiamento. Quindi usciamo dall'aspetto giuridico, entriamo nell'aspetto personale tuo a questo punto, che poi l'aspetto giuridico sarà discusso e deciso magari su altri tavoli, ma in questo momento mi interessa un punto di tutta questa vicenda. Può essere che delle persone disabili con una diagnosi di disabilità possano essere così esposte comunque a dei fatti di violenza sessuale, violenza fisica, senza avere nessuna garanzia di essere considerati per quello che sono? 800240024, il numero comunque lo do. Ci sentiamo tra un istante. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Melog. Storia di abuso sessuale a Cuneo. Luca ha un ragazzo disabile, autistico, non in grado di intendere e volere. Lo fa accompagnare a scuola per alcuni anni da un vicino di casa, assolutamente attendibile e amico, un uomo di 60 anni. Scopre che questo qua ha abusato sessualmente del figlio. Ha le prove certe, una confessione. Lo denuncia, l'abusatore confessa, va per il patteggiamento, ha una pena tutto sommato lieve che fa sì che continui a girare per la sua città. Luca di questo non si riesce a dare conto e farsene una ragione. Benedetta De Martis, buongiorno. Buongiorno. Benedetta De Martis è presidente nazionale dell'ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Su una cosa volevo sentire Elisabetta De Martis, poi continuerà Luca e terminerà la sua testimonianza. Ho letto nella replica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, che ha scritto al Corriere della Sera, tutti quelli che hanno parlato, specificando la sua posizione, dicendo che loro hanno applicato la legge a tutti gli effetti. Poi sono due punti su cui magari forse vale il caso di riflettere. Primo, Dice che questo ragazzo aveva una diagnosi di ritardo mentale medio, oltre alla diagnosi autistica. Altra cosa, c'è il fatto che aveva un amministratore di sostegno piuttosto che l'interdizione, fa sì che loro a tutti gli effetti non applicare la legge, non c'è dimostrazione che questo ragazzo non fosse in grado di intendere e volere. Come la vedi te, Betty? E questo è l'equivoco per cui l'autismo si presta molto. Perché abbiamo ragazzi che sembrano in apparenza competenti, capaci di esprimersi, ma se uno non conosce bene l'autismo, se un professionista non sa fare bene una diagnosi, il rischio è che dia una diagnosi lieve, quando invece sappiamo bene che l'autismo, dove è più deficitario, è nelle relazioni e nella comprensione delle relazioni sociali. In questo caso il soggetto è articolo 3,3, cioè è autistico al 100%. Però nella diagnosi c'è scritto ritardo lieve, su questo ritardo medio. Su questo ritardo medio il giudice non può che applicare la legge, che la legge questo prescrive in caso di patteggiamento. Quindi diciamo che non è tanto la sentenza in sé su cui bisogna discutere, ma sul fatto che forse bisognerebbe in qualche maniera aprire un tavolo di discussione su come vada valutato un soggetto autistico. Assolutamente. Se uno ha l'articolo 3,3 vuol dire che ha un autismo grave e di conseguenza è un disabile al 100%, per cui io sono stupita che sulla dicitura medio grave non ci sia una copertura in questo senso. È necessario che apriamo un tavolo di dibattito con i magistrati, ma con gli specialisti. Come associazione nazionale pensate che da questa sentenza possa venire fuori, comunque, se è possibile dirlo in maniera costruttiva, l'idea di rivedere tutto? Che io penso anche, questo ragazzo, se fosse lui a compiere un reato, sarebbe arrestato immediatamente per la stessa ragione, perché dice come no, ha un ritardo medio, quindi può compiere tranquillamente, consapevolmente un reato, quindi proprio a tutela anche dei ragazzi, non soltanto come vittime di abusi, come possibili autori di atti di cui poi loro non possono rispondere. Certo, certo. Guarda, dobbiamo davvero fare un'azione di consapevolezza anche per le famiglie di questi ragazzi, proprio per dargli più strumenti per avere diagnosi corrette e che davvero tutelino. Senti, la paura dell'abuso sessuale serpeggia fra le famiglie con ragazzi adulti? Purtroppo sì, soprattutto con le femmine, per lo stesso discorso. Tu hai una figlia femmina autistica? Io ho una autistica. Posso dire per fortuna che è così grave che è tutelata in tutti i sensi. Io ho chiesto l'interdizione per lei, questo forse ci tutela di più, però abbiamo ragazze che sono soggette ad abuso sessuale perché riescono comunque ad avere un livello cognitivo che gli permette di vivere nella società, ma molto più a rischio di mia figlia. Molto chiaro. Luca, per concludere, lascia te la conclusione, proprio gli ultimi 2 minuti. Cosa pensi di fare adesso? Tuo figlio come va a scuola? Come vi comportate? Come vi inserite nel piccolo centro in cui abitate dopo questa vicenda che ormai sarà sulla bocca di tutti? Beh, intanto da quando è successo chiaramente il fatto lo accompagno io e la mamma, e quindi con i problemi che ci si può immaginare. E tra l'altro, appunto, prima si parlava del fatto che c'è questo rischio, io c'è la possibilità reale che passeggiando nel paese con mio figlio io mi ritrovi davanti questo individuo. Questa è una cosa sconcertante, secondo me. A te è capitato di rincontrarlo? Per adesso no, per adesso non è ancora capitato, però so da amici che me l'hanno riferito che solo l'altro giorno se ne usciva tranquillo dal bar dove era abituato. Però non ha avuto nessun provvedimento di limitazione alla sua libertà. Assolutamente. E ripeto, ha tra l'altro 2 nipotini in famiglia. Questo è un problema della famiglia. Senti, la sentenza è... Puoi ricorrere contro questa sentenza in qualche maniera? Hai strumenti giuridici? Allora, la legge purtroppo non permette neanche l'appello in Cassazione per il patteggiamento, una sentenza di questo tipo. L'unica cosa che si può sperare, e infatti lunedì ho appuntamento con il procuratore generale a Torino, di vedere se ha valutato il caso, se ci sono degli estremi per poter impugnare o fare qualche cosa. Stai valutando, comunque, come abbiamo capito, è una vicenda intricata, difficile, che dimostra una grande lacuna. Nel nostro paese, nei confronti della neurodiversità, ancora c'è un atteggiamento molto poco scientifico e molto poco attento. Alla prossima.